Una storia che ci viene da New York, che non è una storia di Iraq e di soldati americani, non è una storia di torture nelle prigioni, ma è una storia di una morte. La morte di Onofrio Avvinti. Chi era Onofrio Avvinti? No, Onofrio Avvinti non era nessuno, era uno come noi, uno che esce la mattina, che va a prendere i figli e i nipoti a scuola, uno che il venerdì accompagna la moglie a fare la spesa in un grande supermercato della periferia di New York. Proprio il venerdì prima di Pasqua, Onofrio Avvinti, ormai cittadino americano che naturalmente tradisce una evidente origine italiana, si accorge che in quel parcheggio del supermercato un poliziotto ha fatto una multa alla sua auto, un banale divieto di sosta. Mentre aiuta la moglie a scaricare i sacchetti della spazzatura, un dolore fortissimo al petto lo fa accasciare sulla propria vettura. È un infarto. Si avvicina alla polizia, nemmeno un riguardo verso la sofferenza di quest'uomo, e immediatamente gli dice di pagare la multa, gli fa presente che la macchina era in divieto di sosta. Molte persone in quel parcheggio insistono dicendo ai poliziotti: ma cosa state facendo? Aiutatelo, non c'è nulla da fare, i poliziotti sono irremovibili, prima deve pagare la multa, poi chiameremo l'ambulanza. Sembra incredibile, invece è vero ed è accaduto proprio pochi giorni fa, il venerdì prima di Pasqua. Onofrio Avvinti viene portato in ospedale da un'ambulanza che finalmente arriva e lì muore. I familiari sono arrabbiati, se la prendono con il comune di New York, con la polizia di New York. La morte di Onofrio Avvinti diventa un caso a New York, ma persino il sindaco Bloomberg dice: no, avete torto, so io come sono andate le cose. Ma come? Lo sappiamo noi che eravamo lì, rispondono la moglie e i figli. Rincara la dose la polizia dicendo: i nostri agenti hanno fatto solo il loro dovere. Insomma, Onofrio Avvinti è morto dopo tanti anni che viveva a New York, a 61 anni, un piccolo pensionato che aveva passato tutta la sua vita nell'ombra, nessuno sapeva della sua esistenza, ed è morto come non dovrebbe mai morire nessuno, né in pace né in guerra, rantolando nel parcheggio di un supermercato, umiliato da quelle stesse autorità che Onofrio aveva rispettato per tutta la vita. Roberto Di Nunzio, reporter associati per Amisnet Radio.